Scrive negli anni 70, sputiamo su Hegel, ma in controluce ci finisce anche Marx nella mischia. Il servo resta servo, cambia solo la faccia. Dialettica servo, padrone che gira in tondo, non spezza il gioco. Un padrone che sostituisce un altro nei paesi rossi o dentro casa nostra. Lei dice uomo e donna, due piani diversi, nessuna sintesi, nessuna fusione. Ma io che leggo oggi sento la storia che chiede anche i conti dell'economia. Non basta cambiare le parole se non cambiano i soldi e il potere. Se chi ha in mano le chiavi del mondo può comprarsi il silenzio e il dolore. Non basta gridare patriarcato se poi al comando facciamo rovescia Marx come un guanto. Prima la cultura e poi la struttura. Ma se il pane lo compra sempre uno solo, l'altro parla vuoto dentro la paura. Io vedo il denaro che orienta il racconto, l'infosfera, le armi, i contratti, la parità di genere rimane un sogno se al tavolo qualcuno paga per tutti. E non è solo un fatto di maschi, perché quando una spesso impara in fretta la lezione, schiaccia chi è incinta, chi è più fragile di lei. Allora Marx non è da bruciare, ma da riscrivere senza i suoi muri. Prendere il meglio, cambiare il resto, non buttare via il pensiero con gli abusi di alcuni. Non basta cambiare le parole se non cambiano i soldi e il potere. Se chi ha in mano le chiavi del mondo può comprarsi con Freud seduto, gli mostra i dati, dice ti sbagli, la clitoride il centro del piacere, non c'è nessuna invidia del pene. L'orgasmo vaginale si arriva, è un eco, un rimbalzo, una strada di lato. Il corpo dice ascolta la mia mappa, non ridurre il sesso alla penetrazione. Il letto non è un altare di possesso, ma un dialogo di mani e di persone che cercano la strada, non un ricatto in forma di bambino. Lei sogna la fine del matrimonio monogamico come una gabbia gentile, divorzio borghese o anello al dito, cambia il nome ma spesso resta il padrone. Perché l'amore non è una catena, è una ricerca, è una contrattazione, dove il piacere non ha un solo centro e nessuno può usarlo come prigione. Voce del medico, io in ambulatorio li vedo arrivare. Lui che non riesce più a stare in erezione, lei che si sente frigida e sbagliata, tutti prigionieri della stessa visione. Ma il sesso è molto più largo del letto, è mano, parola, sguardo, immaginazione. Non finisce se salta la meccanica, inizia quando cambia la definizione. La masturbazione smette d'essere colpa, diventa un gesto di cura di sé, e ogni carezza che non è bene e nelle risate, in una foto postata, in un ti ho visto leggero, in come ti mostri al mondo ogni giorno, nel bisogno di essere guardato davvero. Agli incel chiusi nelle loro stanze, alle femcel che si sentono sparire, dire che il sesso non è un trofeo, nel timbro per valere o per fallire, che forse sono meno soli di quanto credono, che ogni legame ha una sua temperatura, che c'è l'emozione aggiunge il suo gesto.